Michele, se ma sei secondo te, se va bene, il lattolo via coi gas, ora è secondo me, vediamo, via questa bottura. No vaya a hacerte daño, la, la, la, la, la.